Italia in controluce. La seconda edizione di Italia in controluce, il viaggio quotidiano di Radio 24 nelle storie di cronaca italiana, un programma condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. La puntata di oggi è dedicata all'apertura dell'anno scolastico. Noi non affronteremo i piccoli e grandi problemi che attanagliano la scuola, ma raccontiamo storie, alcune emblematiche come questa che viene dal quartiere Zen, estrema periferia di Palermo, Piera Ceci. Siamo in pieno quartiere Zen, caseggiate che puzzano di sporcizie e di illegalità, ragazzi che scorrazzano tutto il giorno su motorini rubati e portarli a scuola diventa un'impresa difficile, quasi impossibile. Aule incendiate, palestra distrutta, bagni polverizzati più volte, ma il preside ha deciso che vale comunque la pena di andare avanti, perché al quartiere Zen la scuola Giovanni Falcone è l'unico segno della presenza di uno Stato che per il resto preferisce tenersi alla larga. Abbiamo incontrato il preside Domenico Di Fatta, alle prese come tutti gli altri dirigenti scolastici, con organici ballerini, insegnanti che non ci sono, ma anche in questo caso con aule da sistemare tutti i giorni dopo l'ennesimo attentato, l'ennesimo atto di vandalismo, che non sono mancati neanche quest'estate. L'estate da questo punto di vista, devo dire, è stata abbastanza tranquilla, al di là di qualche vetro rotto che per noi è ordinaria amministrazione. E l'avvio come si presenta? Perché insomma è un avvio già difficile per tutte le scuole, fra tagli, incertezze eccetera. Stavo guardando, guardi, proprio soprattutto alla scuola elementare, avendo tolto le compresenze, perché adesso in prima e in seconda c'è il maestro unico, un solo docente che si ritrova in classe 20 bambini può mettersi le mani ai capelli, è da disperazione onestamente. Anche perché gli insegnanti che arrivano allo Zen, adesso io non lo so ovviamente, saranno magari bravissimi, però dopo un po' mi sa che scapperanno? E dopo un po' sì, noi abbiamo più vecchia guardia, nel senso che i docenti che sono qua da più di 10 anni forse hanno fatto il vaccino e riescono a resistere e ce la fanno, ma chi arriva negli ultimi 2-3 anni, soprattutto alla scuola media, scappano. Che succede in quella scuola media? Alla scuola media i ragazzi sono estremamente vivaci. Che vuol dire vivaci? I bambini non riescono a stare fermi, devono essere scolarizzati. Dopo un'ora forse, che in genere è la prima ora in cui riescono a stare tranquilli e a seguire, questi ragazzi hanno bisogno, proprio un bisogno fisiologico, di alzarsi e muoversi. In che cosa sono diversi i ragazzi e i bambini del quartiere Zen dagli altri bambini? Perché loro non riescono a stare seduti al banco? Non riescono a stare seduti perché loro stanno tutto il giorno in movimento fuori, la loro realtà è fatta di biciclette, di motorini, di palloni, perché fuori nel loro quartiere non hanno assolutamente niente, per cui stanno tutto il giorno in strada a muoversi. A questo ci dobbiamo aggiungere che purtroppo molti ragazzi non frequentano la scuola, perché arrivati a una certa età, intorno a 12-13 anni, vengono tristemente utilizzati come manovalanza per la delinquenza spicciola. Ecco, diciamolo chiaramente, se ne vanno anche a spacciare, perché vengono utilizzati per spacciare, essendo minorenni non possono essere perseguiti. Quando vedono i soldi, il giro di soldi, probabilmente a scuola col cavolo che ci tornano. Col cavolo che ci tornano sicuramente, perché oltre ad avere sicuramente bisogno, perché allo Zen lavoro non ce n'è, il quartiere Zen non ha nessun lavoro legale, ci saranno un paio di panifici e basta, per lavorare bisogna andare fuori per lavorare legalmente, per cui serve a mandare avanti la baracca, però è chiaro che un bambino di 13 anni, bambino anagraficamente perché poi sono adulti, un ragazzo, un bambino di 13 anni che si ritrova in mano i 50-100 euro non è interessato a venire a scuola. La scuola avrebbe bisogno di strutture per interessarli, ed è quello che stiamo cercando di fare con la scuola calcio, perché abbiamo avviato la scuola calcio, e il motivo per cui ci hanno vandalizzato la palestra l'anno scorso secondo me è questo, perché la palestra è fondamentale per la scuola calcio, perché i ragazzi devono andare nello spogliatoio, devono farsi la doccia, devono cambiarsi. Distruggendo la palestra ci hanno affossato. Perché che significava per voi tenere a scuola, anche magari solo per giocare a calcio, però tenerli comunque in un luogo protetto? È fondamentale, perché li teniamo a scuola, li strappiamo alla strada. E questo a qualcuno non è piaciuto? Ma quello che io penso per la scuola calcio è stato questo, sì. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie. L'avete rimessa su la palestra? No, la palestra noi non l'abbiamo rimessa su, perché la palestra dipende dal comune di Palermo. E di soldi da là non arrivano? E di soldi da là non ne arrivi. E immagino che dalle famiglie non arrivi un gran contributo economico, immagino che non possiate, come succede in moltissime, quasi tutte ormai, le scuole italiane, possiate chiedere un contributo alle famiglie, vista la situazione che mi descriveva poc'anzi. Non soltanto non chiediamo un contributo alle famiglie, ma alla scuola elementare soprattutto. Ci sono le maestre che portano le merendine da casa per i bambini, perché molti bambini vengono a scuola senza neanche la colazione. E quindi da dove arrivano i soldi per sopravvivere? Da qualche associazione di volontariato, e poi tiriamo a campare. È vero che ha un vetro blindato in presidenza? La porta blindata, cioè. La porta blindata, perché? Minacce aperte non ne ho avute. L'unica minaccia che c'è stata è stata la lettera che è stata trovata l'anno scorso a scuola, quando abbiamo riaperto la scuola materna, perché d'estate c'era stato l'incendio, le aule della scuola materna bruciate. C'è stata l'inaugurazione, abbiamo riaperto queste due aule e in un tavolo della segreteria è stata trovata una busta con una scritta anonima: questa scuola deve chiudere. Senta, ma i genitori che rapporto hanno con la scuola? Devo dire, soprattutto le mamme con la scuola hanno un buon rapporto, perché hanno capito che serve a emanciparli. Però il problema è che, ecco un esempio, quando è stata incendiata la scuola materna, sempre l'anno scorso, le mamme si erano offerte di venire a pulire, ad aiutare volontariamente. Tantissime mamme hanno detto: domani veniamo ad aiutare. L'indomani se ne sono presentato un numero molto ristretto, e poi siamo riusciti a sapere con sì e no che alcuni mariti hanno detto: no, tu non devi andare a scuola ad aiutare. Per cui, se da un lato la mamma vorrebbe che il figlio venga a scuola a studiare, perché capisce che studiando può emanciparsi e può togliersi dalla strada, dall'altro c'è chi dice: no, a scuola non ci deve andare perché deve andare in strada. Arrivano pressioni, quindi... C'è questo rapporto conflittuale. Senta, ma le dà soddisfazione lavorare in una scuola come questa? La soddisfazione sì, la soddisfazione la dà, però dovrebbero capire al Ministero, all'Ufficio Scolastico Regionale, che i docenti che insegnano in questa scuola dovrebbero veramente avere un incentivo a rimanere. Perché non si può stare a lavorare qui allo Zen senza avere qualche cosa in più, 400-500 euro in più rispetto a un docente di un'altra scuola, anche perché il vetro della macchina rotta, la ruota bucata, lo striscione alla macchina, qua ci scappa sistematicamente. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa. Puoi decidere tu. Ma a voi chi ve lo fa fare? Perché non vi trasferite in una scuola migliore, fra virgolette? Guardi, qua ci sono soprattutto alla scuola elementare maestre che sono qua da 20 anni. E quella è una missione, perché si rimane solo e unicamente per quello, ti creda. Frustrazione, rabbia anche per i pochi soldi che arrivano, per tutta una serie di difficoltà da affrontare, però immagino che proporzionalmente anche le soddisfazioni quando arrivano saranno più grandi, no? Del preside di una scuola normale. Mi vuole raccontare un episodio, un momento di grande soddisfazione in cui ha pensato: meno male che c'è questa scuola, almeno un ragazzo l'ho salvato? Un episodio che mi è rimasto impresso è stato quello di un ragazzo che è stato segnalato più volte alla Procura della Repubblica per diversi motivi, e la mamma si è convinta a farlo chiudere in una casa famiglia, a mandarlo fuori, perché aveva capito che qua era perso, era entrato in un giro bruttissimo. Il ragazzo è andato in una casa famiglia, prima qua in Sicilia, e poi è stato portato fuori Sicilia. È rimasto fuori circa 7-8 mesi, è ritornato a scuola, è venuto a cercarmi e mi ha detto: grazie preside. Senta, la sua scuola si chiama Giovanni Falcone. Ma ce la fate? fa ridere, sì, fa ridere perché è un nome pesante, insomma, ma ce la fa lei a far rispettare la legalità almeno fra le quattro mura della sua scuola in nome di questo martire, insomma, della giustizia e della legalità che è morto con questo nome? All'interno della scuola stanno cominciando ad assimilare veramente questa idea di legalità. Il problema è un altro, il problema però è che appena questi ragazzi escono fuori dalla scuola è come se noi non avessimo fatto assolutamente niente, perché ritornano ad essere assorbiti da quella che è la cultura del quartiere. Abbiamo ridipinto la scuola sempre con il finanziamento del Ministero ed è da un anno che è pulita, perché prima non c'era neanche un centimetro pulito, c'erano scritte di tutti i tipi. L'abbiamo dipinta a gennaio e da gennaio non è più stata sporcata, però i ragazzi fuori continuano a fare esattamente le stesse cose che facevano prima. Insomma, lei li tiene a scuola, cerca di insegnargli cos'è la legalità, di insegnargli cos'è l'educazione e poi li vede dalla finestra scorrazzare con i motori. Sì, esatto, perché poi quegli stessi ragazzi che dentro la scuola riusciamo bene o male a controllare sono quegli stessi ragazzi che di pomeriggio salgono sul tetto della scuola e smontano la videocamera. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate su radio24.it. Vi ricordo il nostro gruppo di Facebook, Radio 24 Italia in Controluce, a domani alle 6.30, naturalmente, su Radio 24.